giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Bernardi, Rossi e Giancarlo sono stati ritenuti colpevoli di quei quattro duplici omicidi in concorso con Pietro Pacciani. Quella che raccontiamo in due puntate è una storia di lucida follia, maturata nella solitudine di una vita solo apparentemente normale. 16 delitti, 18 anni. Una scia di morte che ha terrorizzato Firenze e la provincia tra il 1968 e il 1985. Perché una storia così non si può raccontarla a cuor leggero. 16 delitti commessi poco prima di mezzanotte, nelle notti d'estate che precedono un giorno non lavorativo. Il killer compare dal nulla, colpisce in silenzio, poi torna alla sua quieta vita. E sono i luoghi, i viottoli appartati, lontani da occhi indiscreti, che mettono ancora più paura. Da Firenze, il racconto di Ubaldo Cianciulli. 21 agosto 1968, la beretta calibro 22 uccide la prima coppia, è notte, è l'inizio di un incubo. Barbara Locci e Antonio Lobianco sono amanti, si sono appartati a Castelletti di Chini in una radura in una stradina di campagna vicino a un cimitero alle porte di Firenze. Sono in auto, sono uccisi da Stefano Mele, marito della donna, che risparmia il figlio natalino sul sedile posteriore. 14 settembre 1974, la beretta e i proiettili Winchester Long Rifle cambiano di mano ma uccidono ancora. Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, fidanzati, sono sorpresi a stagionare di Borgo San Lorenzo in un viottolo sterrato vicino al fiume Sieve, tra rovi, cipressi e viti. Il corpo della ragazza è martoriato a colpi di coltello. 6 giugno 1981, Carmela Denuccio e Giovanni Foggi sono uccisi a Scandicci mentre si trovano in auto in una stradina sterrata di campagna. Per la prima volta il corpo della ragazza viene mutilato. 22 ottobre 1981, Susanna Cambi e Stefano Baldi si erano appartati nell'auto parcheggiata nei pressi del torrente Marina, lungo un viottolo sterrato in campagna, in località Le Cartoline a Travelle, vicino Calenzano, tra un campo di gran turco, alberi d'olivo e filari di vite. 19 giugno 1982, in una strada poco frequentata a Bacchiano di Montespertoli sono uccisi Antonella Migliorini e Paolo Mainardi. 9 settembre 1983 è la data dell'omicidio della coppia tedesca. Due uomini, forse un errore della banda di mostri, Ortmeier e Rush of Stars, sono uccisi sul loro furgone parcheggiato in una piazzola al Galluzzo sulle colline di Firenze. 29 luglio 1984 a Boschetta di Vicchio sono uccisi Pia Rontini e Claudio Stefanacci. La zona è isolata, in campagna vicino c'è un campo di erba medica e il fiume Sieve. 8 settembre 1985, agli Scopeti, a pochi chilometri da San Casciano Val di Pesce, è uccisa una coppia di amanti francesi. Il mostro di Firenze non colpisce dunque nello stesso luogo. Lui utilizza sempre la stessa arma, una beretta a calibro 22, modello Long Rifle, serie H. Spara in tutto 66 proiettili di marca Winchester provenienti da due diverse scatole. L'inchiesta è lunga e tormentata, piena di sorprese e di buchi neri. L'11 settembre 1985 un anonimo scrive ai carabinieri. Per la prima volta emerge il nome di Pietro Pacciani. E il 30 ottobre 1991 i PM Vigna e Canessa inviano a Pacciani in carcere dal maggio dell'87 un avviso di garanzia per i delitti del mostro. Nell'aprile-maggio del 92 per 12 giorni vengono perquisite a Mercatale la casa e l'orto di Pietro Pacciani, uscito dal carcere il 6 dicembre del 91. Il 16 gennaio del 93 Pacciani viene arrestato, l'accusa è quella di essere il mostro. La dichiarazione di Pietro Pacciani nel processo di primo grado, aperto il 19 aprile 1994. Io la rimetto nelle vostre coscienze, ho detto tutto nei memoriali e compagnia bella, ho sempre lavorato nei campi senza allontanarmi e da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce, credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità, e questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti. Non ho fatto questo male io. Un contadino va a lavorare la terra, non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Come ce devo fare? Io ho detto tutta la verità. Ma attenzione, Pietro Pacciani, secondo i tribunali, non agisce da solo. Nell'inchiesta entreranno nei mesi successivi Mario Vanni e Giancarlo Lotti, i cosiddetti compagni di merende. Mario Vanni al processo di secondo grado. Signor Vanni, che lavoro fa lei? Io sono stato a fare delle merende con i Pacciani. No, no, scusi, un attimo. Allora, vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. Guardi, lei comincia male, sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto. Lei ha conosciuto Pietro Pacciani? Sì, l'ho conosciuto. Siete diventati amici? Sì, a volte sono andato a fare qualche merenda, così, vero, ma a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non ho fatto. Qualche volta si univano amici diversi o andavate solo voi due? Noi due siamo andati. Si trovava. Vi trovava? Paese. Dopo desinare, così, a fare una merenda. Poi io altre cose non ho. È mai venuto il Pacciani con lei, come dice, da qualche donna? No, io insieme alle donne con Pacciani non sono mai stato. Io le vado ad andare a fare qualche merenda. Sì, abbiamo già capito, signor Vanni, qualche bicchiere, via, sì. Questo lo possiamo dire. Michele Giuttari, ex capo della squadra mobile di Firenze. Dal maggio del 2003 coordina una task force speciale antimostro, 10 uomini più Giuttari, affiatati da anni di lavoro spalla a spalla, tutti i giorni in un bunker ricavato in due piani di un albergo di Firenze. Loro riprendono in mano il dossier sul mostro, 36 anni di indagini, incominciate dai delitti commessi dal 21 agosto del 68 fino all'8 settembre del 95. A Michele Giuttari abbiamo chiesto cosa è stato accertato nel lungo iter processuale. In primo grado era stato condannato perché ritenuto responsabile degli ultimi 7 duplici omicidi, era stato assolto solo per il delitto del 68. In appello era stato assolto, quindi primo grado 94 condannato, 96 febbraio 96, 13 febbraio 96 assolto. Nel frattempo si sviluppa l'inchiesta sui cosiddetti compagni di merenda. E sulla base degli elementi che si sono raccolti con questa nuova inchiesta, la Cassazione nel dicembre del 96, il 12 dicembre 96 se non ricordo male, aveva annullato l'assoluzione di Pacciani, quindi il Pacciani aveva in quel preciso momento riacquistato la qualità di imputato in un procedimento di appello nuovo che si sarebbe dovuto svolgere nell'autunno del 98 e che non si è svolto perché il Pacciani nel febbraio 98 è deceduto. Se si legge però la sentenza di condanna Vanni Mario e Lotti Giancarlo colpevoli ormai definitivamente degli ultimi 4 duplici omicidi come esecutori, nelle prime pagine è possibile leggere che i giudici scrivono quello che i giudici scrivono, e cioè che Vanni Mario e Lotti Giancarlo sono stati ritenuti colpevoli di quei 4 duplici omicidi in concorso con Pietro Pacciani. Nell'estate del 2000 prende consistenza una terza inchiesta che prende in considerazione l'ipotesi che alcuni omicidi non risolti possano in qualche modo essere collegati alla vicenda. Si tratta di quelli di Francesco Vinci, trovato carbonizzato con Angelo Vargiu nell'agosto 1993, di Milva Malatesta, del suo bambino di 3 anni, della prostituta Milvia Mattei, uccisa a Signa nel maggio del 94. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, la morte di Renato Malatesta, marito di Maria Sperduto. L'uomo fu trovato impiccato nella sua stalla il 24 dicembre dell'80. Tutti avevano avuto rapporti diretti o indiretti con gli imputati dei duplici delitti. Nei giorni scorsi arriva la svolta. Vengono indagate 4 persone. Francesco Calamandrei, 63 anni, titolare fino a qualche anno fa di una delle 2 farmacie di San Casciano. Achille Sertoli, 70 anni, dermatologo universitario. E poi un avvocato e un imprenditore. Michele Giuttari ha legato la sua vita, la sua professione ad un'idea, quella del cosiddetto secondo livello, cioè l'esistenza di mandanti dietro agli esecutori. L'idea di Giuttari non è campata in aria, ma questa è già la storia della nostra seconda puntata. Questa indagine prende le mosse dalla sentenza di condanna di cui prima ho fatto cenno, e i giudici che hanno condannato Vanni Mario e Lotti Giancarlo hanno scritto nella motivazione che dalle risultanze dibattimentali di quel processo erano emersi elementi interessanti che portavano alla presenza, molto verosimile per loro, di un mandante che commissionava i delitti. Da lì è partito un nuovo procedimento penale, doverosamente un atto dovuto della Procura della Repubblica, ed è partito questo nuovo filone investigativo che ancora è in corso. Si sta lavorando e si è lavorato con grande riservatezza, con la discrezione che deve avere un'indagine investigativa, soprattutto quando si tratta di un'indagine così tormentata negli anni, è venuta fuori questa novità investigativa che ha segnato un momento dell'inchiesta scelto dalla Procura della Repubblica, un momento fisiologico dell'inchiesta, lo definirei proprio così, che ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica, dei mass media. Mi auguro che si esaurisca quanto prima questa attenzione per consentire che sia ristabilita quella serenità che è necessaria per continuare ad indagare e riuscire a mettere finalmente fine a questa storia che in parte è stata chiarita, ripeto, definitivamente, perché c'è la certezza giurisprudenziale su alcuni delitti e su alcuni colpevoli, ma su altre parti ancora non è stata chiarita.